piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Le crocchette dei cani, il passeggino, la zappa con la quale qualcuno ha cercato di allontanare i pitbull, è rimasto tutto fermo al momento della tragedia in via 20 settembre a Flero, dove i due cani hanno ucciso Victoria, una bambina di poco più di un anno che era uscita in cortile, gattonando. Il nonno, nel tentativo di proteggerla, è stato anche lui azzannato. Sono stati i carabinieri ad abbattere i due cani che non consentivano di avvicinarsi neppure ai soccorritori. Il nonno è in ospedale, la procura di Brescia, che ha aperto un'inchiesta, valuta la sua posizione per omessa custodia di minore. La giovane mamma era fuori casa, il papà in Germania per lavoro. Sui profili social le foto della bimba e dei pitbull. Non farò una trasmissione per demonizzare i cani che si mangiano i bambini, tranquilli, non è mia intenzione. Semplicemente voglio parlare di qualcosa che mi ha incuriosito questa mattina. Oggi sono a Milano, casualmente sono capitato a Milano e guardando quelle che sono le notizie cittadine, visto che se uno attraversa un territorio deve capire che succede, vedo che oggi è previsto il voto finale in sede di Consiglio Comunale a Milano, quindi può essere che hanno già votato e può essere che ancora devono votare o stanno votando, magari ci sentono e sono influenzati nel voto, del regolamento comunale di tutela per gli animali. C'è una questione politica, si è aperta, le parti politiche non sono d'accordo, pensate anche su cosa la politica si confronta. Comunque, l'idea è, nell'ambito di un nuovo regolamento per la tutela degli animali, che devono appunto approvare, e l'approvazione finale è oggi, sarà oggi o è stata oggi, dopo aver revocato la museruola per le aree cani, per tutte le razze, il divieto di usare il collare a strozzo, che è quello che blocca il cane e lo strangola se il cane tira troppo, si è pensato bene anche di imporre una sorta di patentino per i possessori di cani di categorie che vengono considerate pericolose. Leggo l'elenco di queste categorie: Pitbull, Rottweiler, American Staffordshire, Terrier, Bull Terrier, cane corso, cane lupo cecoslovacco. Le persone che hanno cani di questa tipologia dovrebbero, se passa questo regolamento comunale, avere un patentino per poter gestire questi cani. Perché? Non perché siano cani che hanno lo stigma della pericolosità o cani nati per uccidere, ma semplicemente è un cane con una bella massa, con una bella mascella, con un certo temperamento, devi sapere almeno di cosa si tratta. Guardate che per avere questo patentino sono 3 giorni, è un corso di 3 giorni, non è niente di che, fate conto, un'abilitazione in più. Ma anche su questo la politica si è divisa, non tutti sono d'accordo, ci sono delle divergenze. Qualcuno dice: perché imporre questa regola, deve essere una cosa in più, una chance, e via dicendo, come se i proprietari di cani fossero intoccabili da ogni obbligo. Io devo fare un patentino per qualunque cosa io faccia, se faccio l'idraulico per sturare un lavandino devo avere un patentino, se faccio l'elettricista per aggiustare una presa devo avere un patentino, se porto a spasso un cane che ha una discreta bocca potrebbe far del male a qualcuno, capire almeno, devo giustificare almeno a chi sta per strada il fatto che lo abbia, che sappia esattamente con cosa ho a che fare. Quindi su questo oggi vorrei confrontarmi con il pubblico. Metto subito le mani avanti, visto che tutti direte tu odi gli animali, perché oggi chi non va a letto con gli animali odia gli animali. Ho un figlio con certe particolarità, lo sapete, si chiama Tommy, uno dei più grossi amici, anzi una delle più grosse amiche di Tommy è un cane corso che si chiama Kalì. Kalì, il nome della dea della distruzione, voi pensate, lo vedete, fa paura, è alto 2 metri, nero, un molossoide con la mascella nera, tutto nero, non c'è essere vivente con cui Tommy si trovi meglio. Kalì viene scodinzolando a prendere Tommy davanti a casa di una nostra amica. Tommy con Kalì va a spasso, sembrano fatti l'un per l'altro. 2 giganti, un gigante e una gigantessa, che passeggiano per le vie di Roma. Kalì è un cane potenzialmente pericoloso. Quindi Tommy dovrebbe, ma glielo faccio fare volentieri, fare il corso, il patentino, lui che poverino non può manco andare in bicicletta, comunque il patentino per guidare Kalì. E questo ci sto. Se questa diventa la regola, per me va bene la regola. A fronte di cosa c'è questa idea? Beh, vedo che già l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani da un anno fa sta dicendo sì, che in effetti molte volte loro immagino che vedano dei cani abbastanza difficili da gestire, o perlomeno complicati da gestire, con dei padroni che non sanno nemmeno da che parte prenderli. Dice, forse sarebbe auspicabile che avere un cane avesse una responsabilità con un granello di conoscenza in più. Poi, se vogliamo fare catastrofisti, ci sono i dati, figuriamoci. Qualche anno fa il sito di Bill Gates aveva fatto una classifica di animali pericolosi per l'uomo. Il cane era al quarto posto nelle top 20 con 17.400 uomini uccisi ogni anno. Questa era la classifica che faceva Bill Gates. In Italia i dati che abbiamo trovato sono quelli del Codacons, che dice 70.000 aggressioni canine all'anno. Però non so, il criterio scientifico nel dare dati del Codacons, se è lo stesso con il quale parlano di vaccini e di conseguenze di vaccini, sono dati sempre da prendere con il beneficio del dubbio. Quindi voglio oggi chiedere al nostro pubblico, 800 24 00 24, qual è la propria esperienza nella gestione di cani particolarmente impegnativi, e siete d'accordo che probabilmente possa servire un patentino per poterli gestire meglio. Già da lontano, se vede un cane, inizia a ringhiare, tira. E se dovessi avvicinarmi, nel giro di pochi secondi inizia la rissa. Essendo poi anche molto massiccio come cane, questo mi crea dei problemi. Spiegami qual è l'obiettivo che hai con lui, cioè se avessimo la bacchetta magica. Naturalmente mi rendo conto che l'umanità è divisa in due grandi tronconi inconciliabili tra loro e difficilmente convincibili rispetto a quella che può essere una media visione del problema. I canisti arrabbiati dicono: guai, il cane, figuriamoci, è colpa del padrone, non ci sogniamo nemmeno, siamo noi, sono tutti pregiudizi e via dicendo. Gli anticanisti cacchistofobici sono quelli che camminano nei marciapiedi stando attenti a dove mettono i piedi, dicono: ah, basta, è ora di finirla con questa prepotenza, che hai cani, ci sono più cani che bambini in giro e via dicendo. A me, diciamo, di queste due posizioni non l'ambisce nessuna, però sono curioso nel sapere, secondo me, in un momento di civiltà, avere un attestato di coscienza di chi ha un cane che sappia esattamente o certifichi il fatto che sa con chi ha a che fare, non sarebbe male. Alessio Borromeo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Alessio Borromeo, intanto la persona esperta che ho chiamato a supporto di tutti i miei dubbi, le mie perplessità e le mie domande, è un addestratore cinofilo, particolare attento ai cani con aggressività o fobie particolari che vanno in qualche maniera ricondizionati. So che adesso lei ha spasso con il suo cane, o sta lavorando con un cane, o sbaglio? Ho finito di lavorare poco fa, sono a spasso con uno dei miei cani. Che, diciamo, rispetto a questa idea che oggi al comune di Milano si discute fra i tanti problemi che affliggono in questo momento l'universo del patentino per cani pericolosi, come la vede dal suo punto di vista tecnico proprio? Sì, allora, io penso che il patentino debba essere obbligatorio per chiunque decida di vivere con un cane, sia esso di razza, meticcio, pesi 2,5 kg o 50 kg. Sono concorde con quello che diceva nell'introduzione, sembra davvero che i proprietari di cani siano intoccabili. No, il proprietario di cane, nel momento in cui decide di passare la vita con un cane, perché ricordo a tutti, il cane non è un peluche, il cane non vive con noi mezz'oretta e poi se ci stanchiamo possiamo portarlo via. Nel momento in cui prendiamo con noi un cane, questo cane ce lo teniamo per tutta la sua vita, che purtroppo è più breve della nostra. Quindi l'unica cosa su cui non concordo è il patentino non dovrebbe far riferimento al cane. Non concordo con il legislatore, ok? Cioè l'elenco di queste cosiddette razze pericolose? Esattamente. E io dico, io l'esperienza di cane che ho in questa fase della mia vita è un corso calì gigantesco che però ha, diciamo, l'aggressività di un cane di peluche, almeno con me e con mio figlio, poi non lo so. Esatto, io penso che il patentino debba essere legato al proprietario, non al cane. Quindi chiunque decide di vivere con un cane, come dicevo, dovrebbe prendere questo patentino. Per guidare la macchina dobbiamo avere la patente? Sì. Per guidare un'imbarcazione dobbiamo fare la patente nautica? Sì. Perché per avere un cane, per condurre un cane, non dobbiamo avere un patentino che attesti che abbiamo le conoscenze, almeno quelle minime? Ne dirò di più, Borromeo, ho visto che c'è questo momento una sorta... È il suo campo di lavoro, quindi spero, ma poi se anche lo dico me ne faccio carico di non dire nulla che la turbi, ma visto che oggi c'è una centralità dell'animale che non c'è mai stata, l'animale da compagnia, nella storia dell'umanità, visto che esiste regolamenti, guai a non far entrare un cane in un ristorante, se io mi lamento c'è un cane che biasci, che puzza sotto il tavolo del mio vicino al ristorante, sto zitto, poi so che è un problema e quindi è giusto che ci stia e magari mi allontano io, quindi ho un'infinità di attenzioni. Ma se meritano tanta attenzione, perché non meritano nemmeno l'attenzione avere un essere umano che li gestisca, che si sappia che ha le qualità psicofisiche per gestirli. Ma io infatti non lo so, io concordo con lei, il cane deve avere, il conduttore, il proprietario di cane, per quel che mi riguarda, deve avere un patentino, e le dirò di più, secondo me deve essere obbligatorio, poi si deciderà se questo corso obbligatorio deve essere a pagamento o non a pagamento, e per quel che riguarda la mia opinione, al termine del patentino, quindi al termine del corso, ci dovrebbe essere un esame che abilita il proprietario o il futuro proprietario. E questo secondo lei per tutti, anche il cosiddetto, con un eufemismo, cane da grembo, deve avere un patentino? Se io mi prendo il chihuahua o il barboncino, deve avere il patentino? Per quel che riguarda me, sì, anche perché il cane da grembo è il cane più antropomorfizzato che si possa trovare. Se no non si chiamava da grembo, c'è un motivo. Certo. Sì, certo, però lei si rende conto che trattare il cane come si tratta un figlio porta inevitabilmente intanto a dei problemi comportamentali per quel che riguarda il cane. Sì, povero cane, ma che non è che gli dia gusto, sinceramente. Esattamente, e poi trattiamo un cane con la stessa psicologia, se mi fate passare il termine, con cui trattiamo. E questo un è umano. Scontato, io ho fatto fior di trasmissioni sul tema specifico, dormite con il vostro cane, infinità di persone, come che c'è la cosa più bella, svegliarsi con quella bella bavetta addosso, con quei graffettini, esatto, di unghiette addosso. Sentiamo qualche suo collega, vi ha telefonato, guardate, la suddivisione nel campo della cinofilia è, devo dire, è sorprendente. Gianluca, che è membro dell'associazione Pastori Tedeschi Collare a Scorrimento, vi differenziate dalle associazioni Pastori Tedeschi Collare che non scorre? Per capire, Gianluca. Allora, buongiorno, noi siamo, io faccio parte della SAS, che è la società Amatori Schaferhunde, che è la società riconosciuta ENCI per quanto riguarda i pastori tedeschi. Però solo con l'area scorrimento voi? No, su quello ogni allevatore, ogni preparatore usa i suoi metodi. Noi siamo assolutamente pro al collare a scorrimento. Che è quello che hanno vietato a Milano? Che vogliono... Esatto, hanno vietato a Milano, non si sa per quale motivo, anche perché, sinceramente io le dico, Nicoletti, i testi a cui fanno riferimento i vari... Io li chiamo nazi animalisti, ma quello può essere una mia visione, sui danni eventuali al collo del cane, sono testi vecchissimi di ricerche di 30 anni fa, fatti su cani che già avevano problemi alle ossa. Poi posso fare una domanda mia stupida, certo, di persona che viene dalla campagna, quindi è abituato ai cosiddetti cani da pagliaio, quindi non ho una grande raffinatezza. Un cane abbastanza grosso, sì, faccio sempre esempio di Calì, che lo vi sempre tranquillo. Se Calì fosse aggredito, scocciato, adesso non l'ho mai visto in azione, e partisse e lo tiene al guinzaglio mio figlio, se non avesse il guinzaglio a scorrimento, come lo fermi? Allora le dico, le faccio un esempio su di me. Io sono alto 1,85, peso 150 kg, quindi per darle un'idea della mia mole, il mio maschio di pastore tedesco ne pesa 44. Io faccio fatica a tenerlo col collare a scorrimento quando lui decide che deve tirare. Quindi è uno strumento necessario per gestire un cane, che un cane, essendo un cane, e non essendo, esatto, un essere umano che ha in testa il codice penale e civile, esatto, se gli girano le palle in quel momento e nella sua situazione deve partire perché deve o difendere il suo padrone o difendere se stesso, o è stato fortemente provocato, o vede un pericolo che noi non capiamo, se non c'è il collare a scorrimento il cane ti parte e poi ne sei responsabile, o e sbaglio? Quindi la domanda che mi pongo io su questo nuovo regolamento del benessere animale è: il comune vuole obbligare i possessori di determinate razze, che poi non si è ben capito, perché per esempio il pitbull non è contemplato perché all'ENCI non è riconosciuto come razza, quindi i pitbull sarebbero fuori, sarebbero compresi. No, c'è il pitbull, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, cane corso, cane lupo cecoslovacco. Non so perché il cecoslovacco sì e il lupo, che ne so. Se vuole glielo dico, perché il cecoslovacco è un cane di recente creazione. Quindi nessuno sa come gli gira, ancora non è stato... Tendenzialmente è un cane non ancora molto inquadrato, mentre il pastore tedesco ha una sua psiche più definita. Questo secondo me è il ragionamento che sta alla base. Tornando al patentino, lei come la vede? Torniamo al patentino, sennò scivoliamo. Il patentino ci può stare, io sono d'accordo, tenendo conto che 3 giorni di corso... Lasciamo perdere. L'allevamento che frequento io, il corso per i clienti che comprano un pastore tedesco lì dura 6 mesi. Quindi è un po' forma, è un'altra patacca, esatto, per dire ci abbiamo pensato. Secondo inutile. Me sì. O per mettere su dei corsi per allevamento cani, che alla fine diventa una grande... Un grande business, un grande come business. Quello degli educatori cinofili attualmente. Quindi abbiamo... No, no, mi piace sentire persone informate, perché io questa mattina ero proprio curioso, avevo letto questa cosa che il comune oggi sta deliberando, magari ci stanno sentendo in quel momento mentre stanno votando, ci pensano, ma scusate, guardate che l'allevatore di cani, pastori tedeschi col collare a strangolo ci dice le cose che magari non abbiamo pensato. Ci fermiamo solo un istante, riprendiamo tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Imprenditore, lavori oggi e incassi dopo 3 mesi. Non fare da banca ai tuoi clienti. La soluzione c'è, il factoring digitale di Credimi. Vai su credimi.com o chiama l'800 195 195. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Ultima ora, inventato il telefono per cani. Ma no, basta fake news. Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Tour Eiffel, Big Ben, Cairo, Johannesburg, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, New York, Miami, Hollywood, San Francisco. Con Alitalia Smile Days viaggiare è contagioso, come sorridere. Solo fino al 22 gennaio tutte le nostre destinazioni in offerta a prezzi davvero imperdibili. Ad esempio San Paolo, Buenos Aires o Rio de Janeiro da 529 euro andata e ritorno, tutto incluso. Info e condizioni su alitalia.com. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Un'auto elettrica! La signora è una montagna. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42, All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri. Come iPhone 11 128 giga a soli 789 euro. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 19 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Melog. Il Rottweiler è stato creato per essere un cane dei macellai ed era in grado di lavorare con bestiami e trainare carri al mercato un centinaio di anni fa, ma al giorno d'oggi, con il suo aspetto marrone e nero notevole, il Rottweiler viene considerato come uno dei cani più spaventosi. Mostra un istinto da guardia naturale per proteggere casa sua e la sua famiglia nell'ambito della sua storia genetica. Tuttavia la forza e la potenza di questa razza possono renderli potenzialmente pericolosi quando sono affidati a un padrone irresponsabile o confuso. Anche i cagnolini possono mostrare un comportamento aggressivo e ringhiare sui nuovi padroni per scoprire chi sia il maschio alfa. Questi cani possono essere pericolosi. Io sento troppo parlare di animali, mi viene da tossire, non so, è una sorta di allergia indotta per il pelo dei cani, soltanto per questo. Allora, oggi stiamo discutendo, ma vedo che abbiamo fra i nostri ascoltatori delle competenze ai massimi livelli, di una un regolamento che è in discussione oggi, in approvazione al Comune di Milano, lo faccio perché sono capitato a Milano, se no non mi importava nulla, che prevede un patentino per i possessori di cani di razze cosiddette pericolose. Ho elencato quali sono, diciamo, le categorie di cani. Ricordo che in alcuni paesi europei con quei cani non si può entrare, quindi hanno comunque una sorta di stigma di pericolosità. Detto questo, non è detto che siano pericolosi. Detto questo, quello che viene fuori dal nostro pubblico finora è che tutti i possessori di cani dovrebbero avere comunque un attestato della loro capacità a gestire il cane. Ma qua entriamo in meccanismi veramente difficili a gestire. Avevo al telefono Alessio Borromeo, che è un addestratore cinofilo che si occupa in maniera particolare di cani che hanno problemi di aggressività, cani fobici, insomma i cani cosiddetti pericolosi. Volevo chiederle, Alessio, rispetto a quello che hanno detto finora i nostri ascoltatori, innanzitutto sulla scarsità del corso di 3 giorni, sembra una presa in giro. 3 giorni non si fa un corso manco per gestire il circo delle pulci, penso, non lo so, no? tre giorni. Io tre giorni non so chi abbia deciso che quella doveva essere la tempistica, non so in base a quali, non so neanche se abbiano stilato un programma, perché in tre giorni su un cane... Allora, da lei che del mestiere, mi dica, in termini plausibili, se acquistassi oggi Calì piccolina e dico voglio essere sicuro che lo so gestire, quanto tempo dovrei passare con lei per essere tranquillo? 2 mesi e mezzo? Le spiego perché. Cioè, no dalla mattina alla sera che viviamo insieme. No, dalla mattina alla sera. No, guardi, basterebbe fare un incontro alla settimana che dura un'ora, un'ora e mezza. Durante quell'incontro le viene data la teoria e le viene fatto vedere in pratica come gestire e quali sono i modi corretti per gestire quello cioè, che sono lei... tecniche comportamentali, ci saranno le gratifiche, i premi, tutto esattamente. Esattamente come si fa con gli esseri umani. Sono tecniche che vengono date all'umano perché le applichi sul cane, più che viceversa. Quindi il mio lavoro è all'80% sul proprietario, su spiegare al proprietario questo è il comportamento giusto, questo è il comportamento sbagliato, questo è il momento di gratificare il tuo cane, questo invece non lo è, questo è il momento di giocare con il tuo cane, questo è il momento di e non c'era niente di strano, la gente fa i corsi di meditazione, di respirazione, di pranayama, di tantra yoga, va in palestra, va a fare corsi di cucito, di giardinaggio, di gestione della propria interiorità e non può andare a fare, se c'è il cane almeno imparare come stare bene col cane. Quali sono i problemi che lei intravede o vede con maggiore evidenza nel rapporto cane-umano? Vediamo, sono quelli, alla fine quello è un problema di rapporto. Come li gestisce poi lei? Come li gestisce? Allora, il problema maggiore è quello di cui le accennavo prima, a trattare il cane come si tratta un bambino. Questo è il problema che assolutamente riscontro quotidianamente. Però scusi, il programma televisivo dell'onorevole Brambilla, che è la bandiera più sventolante dei diritti animali, che tratta i cani come fossero dei bebè, se li bacia, se li lecca, se li ciuccia, mi sembra proprio la strada migliore. No, assolutamente io penso che sia la strada più sbagliata e... Purtroppo quelle trasmissioni vanno in TV, quelle trasmissioni vede la gente per la maggior parte e quindi avalla questo comportamento che già gli appartiene. Cioè se lo fanno in televisione vuol dire che faccio che correttamente posso, il mio cagnolino va baciato, accarezzato, coccolato, fargli il bagnetto. Guardi, giusto ieri parlavo con una cliente che mi diceva, un primo incontro, mi diceva il mio cane è ossessionato, mi deve per forza leccare la faccia. Ma io penso che sono istinto, quindi va bene così. Il mio cane mi fa la pipì dentro casa, ma poverino, è maschio, sarà il suo istinto, gli scapperà, va bene così. Vabbè, no, sulle pratiche di pissing con i cani non voglio entrare, sono cose private, però mi rendo conto che ma uno per un bambino può andare dal pediatra o da uno psicologo, figlio c'ha questi problemi, ma non per un cane. Un cane gli insegna a farla fuori, devi essere in grado di insegnare a farla fuori, se no non devi tenere un cane, capito? O non devi tenere in casa. Esattamente, io la penso esattamente così. Il problema è in questo paese è che la professione di educatore, addestratore, non è una professione statalmente riconosciuta, non esiste un vero e proprio albo. Quindi le persone che anche vogliono rivolgersi a qualcuno per farsi aiutare, la realtà è che non sanno dove andare. Fermo un attimo, mi ha messo il dito in una piaga. Ma chi li fa allora i corsi al Comune di Milano se non c'è una figura professionalmente riconosciuta? Il veterinario, l'unico una persona diciamo più adeguata, è a livello più alto della scala umana del conoscitore degli animali, ecco, diciamo così. Guarda, il veterinario è quello che secondo il regolamento... Sì, che però ha studiato anche un po' di etologia, perché il veterinario cura l'animale, ma non è che dovrebbe allora, avere... Il veterinario, io non mi non voglio si pronuncia, sovrapporre sì. alla figura del veterinario. Ma chiaro. Però è più competente, in assoluto è più competente, è chiaro. Al momento sì. Sì, però il veterinario è competente su alcuni aspetti, su altri secondo me l'educatore e l'addestratore lo è molto di più. Il problema, le dicevo, non essendoci un albo riconosciuto e il Comune di Milano non può dire allora tu vai dall'addestratore X, perché addestratore X chi è? Non c'è. Io posso scrivere sulla porta di casa mia addestratore di cani, nessuno mi può dire niente. Guardi che tendenzialmente se lei adesso esce dalla redazione, si fa dei bigliettini da visita e scrive addestratore cinofilo, lei è un addestratore cinofilo. Nessuno mi può dire nulla, ecco, esattamente. Nessuno le può dire nulla, lei deve aprire una partita IVA, tutta più le può dire qualcosa al fisco, ma nel momento in cui ma io mi faccio pagare, voglio regolare fattura. Regolare fattura, ha il suo bigliettino da visita con scritto addestratore cinofilo, lei a tutti gli effetti ad oggi è un addestratore cinofilo. Avevo dei cani da ragazzo, quindi posso farlo, certo. Può farlo, legalmente può farlo. Faccio un corso scuola radioelettra per addestratore di cani, ecco fatto. I corsi in Italia ci sono più corsi che cani, come ci sono più addestratori che cani, io concordo, è assolutamente vero. Lei va, fa un qualunque corso che le piace, quel corso le dà un diplomino, quel diplomino è... Poi mi scusa, allora, non sarebbe stato importante prima stabilire il protocollo dell'addestramento del cane? Perché il veterinario, chiaro che può darti due istruzioni esatte più che un'altra persona per 3 giorni, ma se qua si parla di imparare a gestire un cane... È come, diciamo, l'ingegnere della scuola guida, non è che chiunque, tutti sanno guidare ma non tutti fanno la scuola guida. Ma esatto, tutti sanno guidare, ma se io non avessi avuto un maestro di scuola guida probabilmente non saprei guidare bene come so guidare ora, perché il maestro sa insegnarmi. E purtroppo non è stato stilato nessun protocollo, che io sappia, non si sa esattamente questi corsi da chi saranno tenuti, da quale veterinario e perché, da quel veterinario lì sì e da quell'altro no. E... io non so neanche se gli addestratori o chi per essi saranno abilitati e con quale criterio se lo saranno a tenere questo corso. Le posso dire che, come sempre, è il solito, facciamo le cose un po' all'italiana maniera e abbiamo fatto vedere che ce ne siamo interessati, basta, finirà lì. Io non so. Contenti tutti che ci siamo interessati agli animali, carini gli animali, che bello, finalmente si fa qualcosa per gli animali. Le persone con l'animale magari fanno il patentino e diranno in giro: io c'ho il patentino, lei non osi dire niente. No, ma scusi, sta facendo fare la cacca al suo cane qua sui miei piedi. Ma io ho il patentino, il cane ha bisogno in questo momento. Io purtroppo penso che andrà a finire esattamente come dice lei. Rossana, da Como. Rossana, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, io voglio dire una cosa, sono ben felice che ci sia questo patentino. Io sono stata una proprietaria di un gruppo cecoslovacco che purtroppo è mancato l'anno scorso. Quindi ormai non c'ha più il problema però lei? No, vabbè, magari ne avrò un altro, ne prenderò un altro. Comunque, il discorso è, per quanto riguarda questa particolare razza, io vorrei, forse non molti lo sanno, comunque il lupo cecoslovacco, come si è detto giustamente prima, è una razza di recente creazione. Va capito, diciamo. Ecco, ed è un cane assolutamente particolare, però è di moda. Allora cosa succede? È venuto di moda? Perché? Perché ci sono, non so se ha visto, il Trono di Spade. Ah, il cane è quella specie di husky del Trono di Spade. È quel cane lì. È un cane che ha ancora questa componente selvatica che alla gente piace molto. Ma lì l'hanno messo apposta perché è una creatura mitica nel Trono di Spade. E allora ognuno di noi vuole avere la creatura mitica. Mamma, voglio il cane del Trono di Spade. La natura selvaggia in casa. Allora, come si chiamano? Nel Trono di Spade hanno un nome particolare, me lo ricorda? Non me lo ricordo, no, perché non è che l'ho seguito, però so che dirà... c'è. Vabbè, sì, c'ha un nome particolare. Comunque, non sono amante del Trono di Spade, ho visto la prima puntata, uno dei protagonisti danno i cuccioletti di questo cane lupo cattivo. Allora, cosa succede? Succede che è di moda per tanti motivi, le persone fanno le cucciolate in casa, selvagge, nascono i cuccioli, i cuccioli vengono venduti su eBay, anche regalati a volte. La gente si ritrova con dei cani assolutamente scatenati, perché è una razza fantastica, ma è una razza molto difficile e molto ancora, diciamo, vicina alla natura. Quindi, diciamo, sono cani da gestire se uno ha i regni del Trono di Spade, dove intanto sono orchi, elfi, sì, draghi volanti, e il cane sa difendersi, ma se lo porta in giro per una strada in città. Cani meravigliosi, non cani da compagnia, non cani da salotto, cani però con una grande, non so come dire. Prima ancora del patentino bisognerebbe lavorare, diciamo, sulla psicologia umana e sul condizionamento umano, che pensa che il cane, che è un essere comunque che ha una sua dignità, una sua esistenza, possa essere un giocattolo. Mamma, voglio il lupetto del Trono di Spade. Subito il bimbo minchia viene accontentato, arriva a casa il lupetto, poi cominciano i problemi. Fermiamoci ancora un istante, sempre più interessante. Melog. Per fortuna mi è arrivato il supporto di Walter, il collega che si occupa dei social di Radio 24. Mi era sfuggito, si chiama il Metalupo. Il Metalupo è questo cagnone gigantesco, è un cane che ha delle origini preistoriche, esistito veramente. Nel Pleistocene c'era questo Metalupo. È un ascone gigante, Naturalmente questi cani selezionati oggi non sono grandi come metalupi, ma sono dei bei cagnoloni, e la gente vede il film e naturalmente vuole comprare il cane. Poi c'è dei cani che non gestisce bene, perché sono cani di recente selezione, diciamo le razze di cani si migliorano a seconda di come vengono selezionate, i vari incroci, e si fanno cani il più possibile adattabili alla vita degli uomini, perché il cane nasce come una fiera selvaggia, non è che nasce per stare vicino all'uomo. Siamo noi che l'abbiamo costretto a star con noi, abbiamo fatto dei cani ridicoli con la pancia a terra e le gambe corte, che sembra carino la terra, o cani che sembrano dei batuffoli. Ci siamo inventati noi per il nostro piacere. Vediamo Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Allora, io non sono un esperto, nel senso che non mi occupo appunto di lavoro, di gestione di cani, non faccio l'allevatore e gli istruttori, ho però un cane che è un incrocio pitbull bull terrier, e sono intervenuto, prima lei ha detto una parola, no? È bimbo minchia. Sì. Ecco. Mi riallaccio a questa parola, perché effettivamente, allora, io sono d'accordo sul concetto del patentino. Qual è che il bimbo minchia può avere anche 45 anni, eh? Bravo. Non è che è un bambino, eh? È una categoria dell'essere, il bimbo minchismo. Bravissimo. Anzi, il bimbo minchia è più il genitore che il figlio, normalmente. Bravo. Il figlio, esatto, è bimbo e basta, esatto. Il bimbo minchia è il padre. Esatto, purtroppo il figlio poi probabilmente diventerà minchia. Ah, no? Ah, sicuramente, certo. Esatto. Da un bimbo e un bimbo minchia viene fuori un minchione, è chiaro. Esatto. Questo purtroppo è così, è fatale. Esattamente. Quindi il concetto è, sicuramente io appunto Pitbull Bull Terrier è un incrocio, è un cane che deve essere gestito come tutti i cani. Io l'unico morso che ho preso da dei cani nella mia vita è stato da un Jack Russell, perché la padrona non l'ha gestito bene. Io da uno Scottish Terrier, mi ha massacrato una mano. Sì, però perché lo stavo strappando dalla bocca di un pastore tedesco e l'ho morso me, non so perché, era il mio cane. Certo, lì che dovevo fare? Reazione. È chiaro, poveraccio, esatto. Mordeva ovunque. Esatto. Cioè, esatto. Sparava raffica dove pigliava, che doveva fare? È alto 20 centimetri, l'altra grosso. Esattamente. Quindi le dico, io sono d'accordo sul concetto del patentino, dovrebbe essere strutturato in maniera diversa, perché io con questo cane qua, logicamente, sia io che la mia compagna, che lo dobbiamo gestire, stiamo facendo un corso che dura 6 mesi con teoria più pratica per gestire il cane, perché effettivamente sono cani non pericolosi ma potenzialmente pericolosi. Però vede, lei è una persona cosciente che ha un rapporto corretto con il cane, è un cane che sa che in potenza può essere un cane problematico, e sta studiando lei e la sua compagna per gestirlo nella migliore delle maniere. Trovo esemplare il suo contributo, e ribadisce il fatto che in realtà se è un corso di 3 giorni è come non farlo. Allora, tanto vale dire vai online e leggiti un pochino qualcosa che è scritto. Liliana, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Allora, io ho sentito da poco l'argomento, e comunque sono molto favorevole all'idea che possa esserci un albo ufficiale riconosciuto, persone qualificate, perché per esperienza purtroppo personale mia figlia è stata aggredita da un Rottweiler e ha rischiato di morire, il tutto per l'incuria dei proprietari, tenendo presente che la stava attaccando sul collo, per cui voleva prendergli la giugulare. Mio padre e il proprietario del cane non sono riusciti a staccarla, e questa cosa la trovo molto grave, e tra l'altro il cane dall'ASL non è stato neanche, diciamo, segnalato. Come, un cane, no, un cane che morde un essere umano è segnalato, deve fare l'antirabbica, ma sta scherzando. Allora, sì, nel senso che l'ASL dice che è stato un... è come dire, no? Io esco di casa, ho le scatole girate... Sì, ma se un cane ti morde, comunque il cane deve essere messo sotto osservazione, questo... Non è assolutamente... Allora, ferma un attimo, resta lì, Liliana. Allora, Alessio Borromeo, scusi, mi aiuta in questa cosa, forse dico io cose inesatte. No, allora funziona in questa maniera. Il problema è che da comune a comune, da regione a regione, ci sono delle prassi diverse. Un cane morde, cosa succede in via generale? La persona morsa va al pronto soccorso. Il medico del pronto soccorso è obbligato a denunciare che ha lì un paziente che è stato morto, certo, da un cane. Okay. Questo proprietario di cane, che è stato denunciato dal medico del pronto soccorso, viene tendenzialmente chiamato da un veterinario ASL affinché porti il cane all'ASL competente perché il veterinario ASL possa fare una verifica. Io lo fa, al tempo lo fece al mio stesso cane questa cosa qua, mi chiesero di portarlo al mio stesso cane. Però io le posso dire per cose che sento dei miei clienti che cani che hanno morso sono stati denunciati dal pronto soccorso all'ASL o guardi non so esattamente cosa, questi proprietari di cane morsicatore non sono mai stati chiamati da nessuno. Ma però sai, questo mi continua a sorprendere, di come viene gestito in realtà questo flusso emotivo e amoroso verso gli animali. Vedo delle lacune. Il morso che mi dette il mio cane, me lo dette probabilmente 20 anni fa, in cui era rigoroso. Ti morde un cane, anche se è il tuo, se l'hai allevato te, sai, ha fatto tutti i vaccini, comunque lo porti in osservazione, perché così deve essere. Oggi addirittura i cani mordono, ma nessuno si pone più il problema di andare a controllare il cane perché ha morso, come ha morso, se ha delle patologie, se ha le vaccinazioni a posto. Andiamo avanti. Paolo da Milano. Sì, sono c'è un acerrimo sostenitore del fatto che alcune razze non sono educabili. Lo dimostrano anche alcuni regolamenti europei che ci sono in Gran Bretagna, in Francia. Scusate, ci sono dei cani, ma nelle categorie che abbiamo citato? Sì, sì, pensiamo anche allo stesso Comune di Milano che ha in proposta questo regolamento di cui ovviamente in giro per le vie, nelle aree pubbliche è chiaro che bisogna avere la museruola, ma nelle aree esclusive dei cani proprio è previsto dal Comune di Milano che alcune razze anche in quelle aree esclusive per i cani portino la museruola. Allora 30 secondi, Borromeo, esistono veramente i cani ineducabili? Se mi chiede la risposta secca io le dico no, tutti i cani si possono educare, ci sono cani decisamente più difficili e che dovrebbero essere in mano a persone solo ed esclusivamente competenti. Sì, però posso aggiungere, non si portano nei giardinetti insieme a bambini e barboncini, anche se ben educati, non si portano. Ma io distingo le due cose però, che si possa educare è una parte, che si possa portare all'area cani in libertà totale con tutti gli altri cani dell'area cani è un altro paio. Va bene, grazie Borromeo, mi ha dato la mano a dare un pochino di senso a qualcosa che in realtà domani uscirà sui giornali come una bella cosa, come una grande occasione mancata. È un po' più complessa la realtà. Alla prossima.